Womane. Allora, io mi sono mangiato adesso. Guarda, chiuso, ma non ho sentito nulla. Sì, tutta la sera sono. Ma lo sai che quelli che stanno facendo i vaccini sono nel canale 1 LPD? Sì, 433075 io. Ho sentito qualcosa, ma sono bassi. Ah, io vi ascolto bene. Sai cos'è? Sto usando esclusivamente l'antenino interno del ricevitore. L'antenna esterna per il ricevitore è in disuso. Non lo sto più utilizzando, la posso anche togliere. Cappa. Anche perché non ne voglio bucare muri e quindi devo tenere la finestra socchiusa per far passare il calo e mirare per le palle. Quando c'è vento mi sbatte la finestra e... non ne vale più la pena, dai. C'hai un leggero innesco. Ah, ho la batteria scarica, Natalito, la batteria da 12. Cappa. Sì, me ne accorgo lo smitter. Il segnale sotto il 9 è sceso, modulando. E dopo la carica ho detto che l'alimentatore. Oh, signor, ho cambiato la disposizione degli apparati perché non mi piaceva com'era. Così posso usare anche le MBT4 sul 3009. Eia. Eccomi qua, alimentatore 13-13-8. La batteria la ricarico. Che dire, Anthony? E anche io fra un po' metto ordine tra gli apparati, mi c'è il cassonetto del generico. Anzi, ne metto uno nel generico, uno nell'umido, uno nella carta, uno nella plastica e uno nel... No, mi pare siano finiti. Tutta roba che non si usa mai. Alla fine io, come vedi, ho sempre quasi sempre il 3009. Tanti soldi buttati. Vabbè, pazienza. Aspetta un attimo, ti faccio sentire il 3009. Fai. Test. Guarda, questo è il 3009, Marco, come va? Bello, anche l'altra andava bene. La modulazione tua è sempre chiara. L'unico punto che posso fare è che in alcuni giorni si sentiva più la televisione della voce. E non conviene alzarlo più di tanto l'MB. Guarda, lo metti a 5, massimo a 6 dovrebbe bastare. E conta che è un ambiente piccolo, quindi la TV ce l'hai a... quanto è? 2 metri? E rientra troppo. Lo so, l'MB4 questo è quello nuovo, no? A 5 l'ho messo. Ega, mi stavo guardando i prezzi dell'MB4, no? Ho visto certi prezzi, 80 euro, certi compresa la spedizione, qualcuno devi metterci pure la spedizione. Stanno rincarando troppo queste cose, invece se vai da Media Globe, l'MB4 59 mi pare, 99, quindi 60 euro più la spedizione che sarà, 6-7 euro. Ma non 80 euro più spedizione, ma stiamo scherzando. Sono ZG, non sono né sciure né... Pace e bene a tutti. Pace e bene, buonasera, ciao Gianfra. Buonasera figlioli, allora come va? Tutte le giornate uguali, Gianfra. Quindi niente. Stavamo parlando dei prezzi dell'MB4, te lo fanno pagare come sciure, come coso, come marche ammiraglie quasi fa un po', ma. Finché possono guadagnare. Se vedono che fa aumenta, se vedono che non lo vuole nessuno, il prezzo cala ovviamente. E hai visto ieri che razza di propagazione era paura che c'era verso il sud? Sì, ieri stavo seguendo, ma avevo il computer qua, stavo facendo roba e un po' ascoltando, ho sentito anche la portante ovviamente. Sì, ho sentito la propagazione dal nulla, dal silenzio, di fondo è emerso questo primo segnale, mi pare fosse o da Catania o Siracusa, non mi ricordo, ma ogni segnale, mi pare che abbia raggiunto tipo 9 più 10 qua, che 9 più 10 qua è 9,20, 9,30 per gli altri, un segnalone, poi a quello se ne sono aggiunti altri, e proprio si è sollevata così. E così è bella però, quando c'è silenzio cominci a sentire segnali isolati forti. Ma quando senti 10.000 segnali in tutti i canali, uno sull'altro, non riesci a fare queste cose. Infatti. Sì, era fortissima, di quelle cose che non capitano spesso, perché quando capita c'è molto rumore. E questa invece era chiarissima, forti. Da un momento uno poteva pensare anche che ci stavano facendo il bidone, e invece poi si è visto come saliva e scendeva. E vabbè, però il tempo è sempre instabile, come avete visto, c'è anche freddo a volte. Sì, infatti non si sa mai come vestirsi, bisogna tenere d'occhio i termometri esterni e addobbarsi di conseguenza. Comunque per le roba vestirsi a buccia, in modo che puoi levare uno strato e o aggiungerne uno se necessario. Bene, io ho cominciato a mangiare da poco e dai, ti lascio in compagnia di Natalino, poi qualcun altro entrerà. Gianfranco, un giorno che hai tempo facciamo quella cosa dell'FM, la deviazione FM di quell'apparecchio, che l'altro giorno mi hanno sentito due stazioni da Alghero e era quasi incomprensibile da quanto era basso. Non ti ho capito l'ultimo passaggio, perché eri talmente basso di radio che ho dovuto aumentare il volume. E niente. Aspetta, lasciami venire avanti Natalino un attimino. Che è importante. Natalino? Ehi, sono qua. Devo scappare. Non sto scappando, è che mi stavo facendo l'insulina, che adesso subito devo mangiare. Me da driburiami. Ognuno le sue. Mi stai dicendo cosa dobbiamo fare, Marco? Vediamo se riesco a capirti un po' meglio. Ha detto che voleva fare la deviazione FM di quell'apparecchio là. Stava dicendo così. Ah, non mi ricordo, quella parecchio là. Vabbè. Marco, appena rientra, illuminami. Prova. Guarda se è tutto a posto qua. Forse mi ero allontanato involontariamente. E poi ero al telefono anche. Mi ha squillato. Sì, probabile. Adesso va meglio, dai. Ti ascolto abbastanza bene, dai. Sì, dicevo, quell'apparecchio, allora all'interno non ha alcuna regolazione, non ha trimmer proprio, non ha alcun trimmer, né per la M né FM, nulla. Però quelle regolazioni base si fanno dal menu di servizio, come un apparecchio analogo che era la Lincoln, mi pare. Però quando vai in modalità di impostazione lì di servizio, se ne va in una frequenza ben precisa, che tra un canale e l'altro addirittura, e quindi vabbè, ti avvertirò in tempo per mettere una deviazione FM decente, non dico forte, troppo forte, ma ben udibile. Sì, ma no, continuo a non capire di che apparecchio stiamo parlando. President Richard AMFM. Sì, e c'è l'FM basso, troppo, cioè erano in due anche con apparecchi amatoriali e non mi capivano quasi, sicuramente la deviazione è a 1 e 2, forse un kHz, se non di meno. Beh sì, no, cos'è, tutto SMD? Sì, naturale, tutti così li fanno. No, mi piaceva perché erano 40 canali, vabbè, in origine, 40 canali diciamo, AM/FM, e ne aveva 13 in AM e roba di 40 effettivi in FM. Magari in macchina è carino, perché così qualche watt in più in AM e molti di più in FM. Ha la presa USB frontale anche, se guardi su internet lo vedi. Ha il nome di un altro presidente, è molto molto simile, però quello simile è a meno watt. Invece questo Richard molti di più. Natalino, c'è ancora? Sì, sono qui. Dai, riprendete un attimino voi, che io devo mangiare, sto ritiando. Io sto mangiando. Sì, dai, anche io rimango in ascolto, perché sto ripristinando un PC e quindi sto facendo questa cosa qua. Però sono qua, dai, appena ho finito, potete chiamare. Ehi, Natali, dai, buon pranzo, di traverso sempre in senso buono. Eia, sì, quel presidente è il modello piccolo dell'altro, sempre c'ha un bel impostazioni, ecco, il solito ecco incorporato regolabile, il solito Vox che non si usa mai tanto, e il Rosmeter incorporato che funziona in un certo modo, no? L'autoascolto incorporato, tutto c'ha, tutto, è tutta roba che non si usa poi. Va bene, ciao a tutti, a dopo forse. Ok, a dopo, tra poco anch'io cose vado a mangiare, sto venendo fame. Sì, Santiago 5, chi è? Ciao Carlo, Marco da Sassari, sto uscendo con 3 watt e mezzo, tu sei Santiago 5, è radio buona. Ok, Gianfranco, hai copiato Carlo D'Alghero? C'ho lo squarcio, ma è un po' alto, intorno alla S5, mi è sembrato di sentire qualcosa, boh, adesso sento qualcosa, ho tolto S2, qualcosa del genere. Non so neanche se sia lui a propagazione. Sì, sì, è D'Alghero, D'Alghero. Qui è Santiago 5. Più o meno, dai. Ok Carlo, dai, ti saluto che stavo staccando. Ci sentiamo. Ciao Gianfranco. Ciao, alle prossime. Ciao Marco, buona cena. Ciao, ciao, alle prossime. Claudioschi. Io entro solo a salutarvi e basta. Mi stavo ascoltando. Ciao Marco, ciao anche a Gianfranco e a Natalino. E anche l'amico di Alghero che arriva, basso ma già arriva. Dai, ci sentiamo, ciao ciao. Eia. Ciao Claudio, 9 più 10 qua, circa 9 più 10, dai. Modulazione solita, buona. Sembra un segnale liscio, no? Minimi termini, giusto? Sì, sì, liscio, liscio, liscio, questa è la potenza minima. E questa è la potenza alta. Si vede, 9,20. Da quasi 9,10 a 9 più 20. Ottimo, ottimo. Mi pare che la modulazione rimanga anche abbastanza fedele. Abbastanza fedele. Ok, dai, ti saluto Claudio, che sono qua le prese col piatto. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. No, io mi sposto, no? C'è una radio accesa, sono andato solo per salutare, lo sapete, no? Ma io mi sono completamente allontanato. Dai, alle prossime, ciao, ciao. Sì, allontanato momentaneamente Claudio, ci mancherebbe, tu entra quando vuoi, cioè qua, questa è casa tua. Entra quando vuoi, due gallini che vi sono portanti e mormuri, io me ne sono uscito, te l'ho già detto Marco per telefono, io non voglio più sapere niente di nessuno, non vedo, non sento, non parlo, sto molto meglio così, ok? Dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Claudio, dai, alle prossime ci sentiamo, quando ne voglia entra, io non è che sia tutti i giorni qua, anch'io non... Mi stavo dicendo a Natalino, fra un po' anch'io riordino la stazione, comincio a mettere gli apparecchi, uno nell'umido, uno nella carta, uno nella plastica, uno nel secco, capito? E faccio pulizia con gli apparecchi. Io già ho fatto pulizia lì, lui ha passato. Vi saluto, vi abbraccio, alla prossima, ciao ciao. Ehi, vai Gianfranco per i saluti, se ci sei ancora, o Natalino? Sì, ci sono ancora, ciao Claudio. e buona serata. Poi tanto tra poco inizia il caldo, si spera, le giornate belle, vedrai che quasi diventerà deserto, penso. Ok, riprendi Natali per i saluti a Claudio. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao ciao. Chi è che c'è rimasto? La zia Iole a vedere. Ora se mi dimentica. Esco a casa, capito? In genere. Sì, sbagliato, ho capito, ma era giusto, per dire, come non hai arrotondato a 45 anziché 44? Perché in poche parole io mi sveglio a quell'ora, faccio il caffè, faccio il caffè, il latte, me lo pongo un irurate, cioè devo fare tutta questa cosa, poi entro in bagno, mi faccio la doccia e poi esco, capito? E poi passa mio padre a prendermi a quell'ora. Ho capito. Tutto un sistema c'è qua. Certo. E guarda, travaglia tu. Vabbè, io devo andare alle 7:30, sono già a Sassari, però se devo scendere a Porto Torres alle 5:45, non alle 5:44. Vabbè, sono, io l'ho impostato così, ho impostato. Ah, certo, comunque quell'ora. Cappa. Sì, sì, già so quell'ora lì. Sono abituato così, poi a dormire dormo poco, non dormo neanche a pranzo. Ci mancherebbe. No, io dormo quel tot di ore e basta, non dormo le altre ore, non dormo generalmente, è così, è difficile che io dorma. Ma io se c'è la possibilità di fare la pennichella me la faccio, ma vabbè, non sto lavorando. Sono abituato così, non riesci a dormire, non riesci a dormire. Io devo dormire, boh, cosa ne so, 4 o 5 ore la notte, poca roba. Scappa. Così è. Massimo signore mio. Massimo. E poi sono tornato in piedi. Vabbè, già, signore è un'area un po' accettabile. Solitamente dicono che la media è di 7-8 ore per poter riposare bene, ma chi dorme? Boh. Dorme, niente, che non deve, va nuda. Sono abituato così. Cosa si può fare? Cosa c'è cosa? Hola. Se ti piglia. Beh, dai, devo uscire, Anto, devo andare a prendere la mia figlia. Sentiamo dopo se coincide. Ragazzi, ci sentiamo. Hola. Cazzo che strano. Ah, ecco bagosa. Ciao, a te, a vedere, proviamo a farle, hola, a figurarlo, hola, ciao, a vedere che cosa, oh, raga, sono un peso, ogni volta per guardione io. Hola. Ah, cosa, raga. Hola. Genere così. Ora, ora tre, prova. Ma la sorte. nessuno, cambio, attenzione, canale 10, canale di Morsi, B20. Attenzione, costruttore si chiama canale 10, cambio. Attenzione, costruttore si chiama canale 10, cambio. Ci siamo? Cambio.